2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in versione estiva, quindi programmi più brevi con alcune interviste che vi facciamo riascoltare tra quelle andate in onda durante la nostra stagione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra, quindi 2024@radio24.it. Potete interagire con noi anche attraverso Facebook e Twitter. Quella che abbiamo vissuto è stata la settimana in cui è andato in tilt il sistema di gestione dei biglietti di Delta. Sale macchine con server giganteschi e anche in questo caso però ci possono essere dei problemi. Pensate che Delta è la seconda compagnia aerea più grande del mondo dopo American Airlines. I dettagli di quello che è accaduto precisamente non sono stati resi pubblici. Sono state fatte molte domande, i giornalisti americani hanno fatto molte domande a Delta, ma non tutto è stato detto. È stato svelato che il sistema informatico ha avuto un problema dovuto ad un calo di tensione nel data center di Atlanta, ma non molto di più. Molti esperti intervistati questa settimana negli Stati Uniti hanno puntato il dito contro sistemi informatici troppo vecchi e con investimenti IT ridotti o comunque che non aumentano a causa della pressione che c'è sul mercato per tagliare i costi. Beh, sicuramente quello degli aerei, del trasporto aereo, è un mercato estremamente competitivo dove basta sbagliare di poco per andare in rosso. E tra l'altro anche le fluttuazioni del prezzo del petrolio incidono molto, ma non solo, insomma, le dinamiche concorrenziali sono piuttosto pesanti e piuttosto forti. E comunque questo è uno dei problemi, cioè che non vale solo per l'industria aeronautica, cioè che l'IT sia ancora considerato un costo e non sia considerato un investimento e soprattutto un fattore competitivo, forse quello più importante per molte aziende di oggi. E quindi se alcune cose accadono, beh, diciamo in generale possono accadere, però nel settore aereo ultimamente, perché questo è stato il caso di questa settimana, ma nel settore aereo soprattutto negli Stati Uniti quest'anno sono accadute cose simili per altre compagnie aeree e quindi in quel settore in modo particolare ci sono problemi più spiccati anche per software che sono forse un po' datati. C'è anche il problema di sostituire software per aziende che funzionano e devono funzionare 24 ore su 24 in tutto il mondo, quindi questo sicuramente è un problema, però la mancanza di sensibilità di molti manager che vedono l'IT come un solo costo e non come un fattore competitivo è un problema che è diffuso un po' in tutte le industrie. Bene, adesso alcune notizie in breve della settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda l'Italia. È stato pubblicato il secondo bando di gara per la costruzione della rete a banda ultralarga nelle zone a fallimento di mercato. Le risorse a disposizione per questo secondo bando di gara sono 1,2 miliardi di euro e le aree riguardano Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli, Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia. Si tratta di un totale di 3.710 comuni e la costruzione della rete inizierà nel 2017. Allora, attenzione perché alcuni dicono rete a fibra ottica, non è specificato nel bando, questa sicuramente non è una cosa molto positiva, vedremo poi quali saranno le proposte degli operatori che rivolgeranno a Infratel che si occupa della selezione attraverso questi bandi. Digital News. Nell'aprile del 2010, alcuni di voi lo ricorderanno, Steve Jobs pubblicò sul sito di Apple una serie di motivi per cui aveva deciso di abbandonare Flash di Adobe per iPhone e iPad. Flash è una tecnologia ancora utilizzata sui siti internet e supportata dai browser per computer, ma già da alcune settimane Safari di Apple e Mozilla di Firefox hanno annunciato l'addio a Flash. Ora anche Google ha annunciato che nella prossima versione di Chrome Flash verrà disabilitato di default. Lo si potrà utilizzare quando si va su un sito con Flash. Apparirà un messaggio, ma sarà l'utente a dover decidere se abilitare Flash per quella sessione particolare. Digital News. Un team di ricercatori che si occupano di sicurezza digitale hanno scoperto alcune vulnerabilità ai sistemi di chiusura e apertura delle porte di numerose marche di automobili. Tra queste ci sono Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Mitsubishi, Nissan, Opel e Peugeot. Ma attenzione, la falla più grave, i problemi più gravi riguardano il gruppo Volkswagen, quindi anche Audi, Skoda e Seat. I ricercatori hanno dimostrato che con un piccolo sistema da $40 con una scheda Arduino, quindi una cosa abbastanza semplice, si possono aprire pressoché tutte le auto Volkswagen vendute negli ultimi 20 anni. Parlano i tecnici di circa 100 milioni di automobili che potrebbero essere aperte. Non sono stati svelati i dettagli della ricerca, quindi un malintenzionato dovrebbe scoprirli da solo, e comunque non è facile. E queste vulnerabilità permettono solo di aprire l'automobile, non di accenderla, però sicuramente sono un problema. Facebook ha annunciato di aver introdotto una tecnologia per aggirare i filtri degli ad blocker, quelle applicazioni, quei programmi che bloccano la visualizzazione delle pubblicità sui siti web, compresi i social network come Facebook. Ma circa 2 giorni dopo, Adblock Plus, che è una di queste applicazioni, ha detto di riuscire a sua volta a superare le difese messe in piedi da Facebook, che però avrebbe già implementato una contromossa, insomma una battaglia con bot e risposta. Questo è solo un capitolo di una battaglia globale molto importante di cui abbiamo parlato e su cui sicuramente torneremo anche nella prossima stagione di 2024. Alcune di queste notizie ci hanno aperto una finestra su alcuni dei temi di cui ci occupiamo a 2024, di cui ci siamo occupati. Ad esempio, abbiamo parlato di Adblocker, che è un problema per l'industria che vive di pubblicità su internet, ma è anche a volte un fastidio per i consumatori, e qui bisognerà trovare l'equilibrio tra la pubblicità che magari diventa più creativa, meno invasiva, e la soddisfazione del consumatore che se vuole continuare a usufruire dei servizi che ci sono su internet non dovrà più utilizzare Adblocker, con le buone o con le cattive, perché sennò questi servizi scompaiono. Comunque è un problema, è un tema molto molto importante di cui abbiamo parlato e sicuramente torneremo a parlare. Abbiamo parlato anche di automobili nel corso della nostra stagione. 2024 si occupa spesso di auto, soprattutto in questo nuovo mondo dell'automobile che vede le tecnologie di connettività o in generale le tecnologie di assistenza alla guida, di assistenza digitale a bordo del veicolo in forte espansione, per poi parlare anche di veicoli autonomi, a guida autonoma, che arriveranno non tra tantissimi anni, cioè che chi crede che arriveranno fra 15-20 anni, tutti parlano nell'industria che l'anno o comunque gli anni dell'introduzione commerciale massiccia di questi veicoli sia 2020-2022, quindi dietro l'angolo, ben prima del termine del nostro programma che punta al 2024, e prima del 2024 dovremo anche trovare forse un nuovo titolo. Dunque adesso parliamo, a proposito di evoluzioni, negli ultimi tempi, negli ultimi mesi abbiamo visto novità molto interessanti nel mondo delle biciclette. Sicuramente una delle novità riguarda la propulsione elettrica, un'altra delle novità riguarda la sensoristica a bordo delle biciclette. Anche sulle biciclette sta arrivando quel mondo che già conosciamo attraverso gli smartphone, oppure anche nelle case dove ci sono sempre più sensori che rilevano tanti parametri. Pensiamo ad esempio anche ai cosiddetti wearable devices, quelle cose come i braccialetti, gli orologi, altri tipi di sensori che indossiamo. In quel mondo c'è stata una evoluzione della sensoristica piuttosto evoluta. Recentemente abbiamo fatto un'intervista 2024 in cui abbiamo parlato di una bicicletta piena di sensori, anche che trasformano la bicicletta in qualcosa di un po' più sicuro, sia perché ci accompagna in modo più intelligente quando siamo per strada, ma anche perché su quella bicicletta volata di cui abbiamo parlato, si chiama proprio così, Volata Cycles, abbiamo parlato ad esempio della presenza di un sensore che è un allarme. Se uno muove quella bicicletta, quando io l'ho bloccata col mio smartphone collegato in Bluetooth alla bicicletta, scatta l'allarme. Adesso vi faccio riascoltare una chiacchierata che ho fatto con Luca Sacchi, che è responsabile dell'innovazione di Piaggio, per parlare di Y-Bike, una bicicletta elettrica e anche in questo caso piena di sensori, una novità molto interessante che ci dà un po' il trend del mercato. Luca, benvenuto a 2024. Grazie. Allora Luca, stiamo parlando di pedalata assistita. Stiamo parlando di pedalata assistita, ma anche perché credo che insomma rinunciare a quello sarebbe un grosso errore, nel senso che le bici a pedalata assistita sono a tutti gli effetti delle bici a livello normativo, per cui non hanno bisogno di casco, non hanno bisogno di targa, vivono in ogni paese europeo vivono delle stesse regole delle biciclette. Sì. Però ecco, faccio un passo indietro rispetto al design. Quando io sono entrato in Piaggio, il progetto bici, che era proprio in stato embrionale, e quello che ci dicevano quelli dell'industria, che sostanzialmente la bici elettrica era una bici per persone che non riuscivano più a usare la bici normalmente, no? Quindi anziani, e infatti l'età media era molto alta. Quello che abbiamo fatto noi invece è cercare di capire un cambiamento di mobilità, e il fatto che questa bici abbia un design così in qualche modo diverso rispetto agli altri, cerca di essere un oggetto di cui non ti vergogni se vai in giro, anzi è una bici molto bella, bella, è proprio in quell'ottica lì. Noi pensiamo e sta andando in quella direzione, quindi nei 2 anni di progetto, da quando l'abbiamo concepita a quando è uscita, che il target sta diventando più giovane, le persone stanno capendo che la bici elettrica è una bici che ti permette di fare più cose. Quindi quello che anche tutto il sistema elettronico di cui parleremo prima, l'app che abbiamo sviluppato, serve proprio a far sì che una persona con una bici elettrica può usarla più volte, ed è un veicolo proprio diverso che permette, secondo me, di usare l'auto meno volte o di fare delle attività. Vedi, non so, quando devo caricare un peso, la bici a pedalata assistita ti permette, aiuta ad andare a fare la spesa, portare dei bambini a scuola, cosa che magari una bici normale non ti permette di fare. Quindi è proprio un'opportunità che abbiamo visto. Stiamo parlando di biciclette, non solo elettriche, elettroniche, ma anche piene di sensori. Luca Sacchi, responsabile dell'innovazione di Piaggio. Il nostro motore è internamente dotato di accelerometri, giroscopi, sensori dinamometrici, quindi ci sono una quantità di parametri. È un prodotto estremamente sofisticato, la bici elettrica. Assomiglia a una bici, ma c'è tantissima tecnologia. Noi, tra l'altro, è il primo prodotto che la Piaggio fa in cui abbiamo sviluppato l'app con cui gestiamo la bici. La bici è dotata di serie, di un cruscotto, e anche un'app che viene regalata all'utente, sia Android che iOS. E abbiamo sviluppato la bici proprio con l'app. Quindi io sull'app ho delle funzioni aggiuntive di gestione del motore, di gestione anche della mia cadenza. Ad esempio, io sulla bici Piaggio posso mettere quanta potenza volevo mettere io con le mie gambe, il motore varia il contributo per far sì che rimanga sempre alla stessa potenza, oppure gestisce la potenza del motore attraverso il dialogo con cardiofrequenzimetri, con lo smartwatch. Con lo smartwatch il motore, la tua pulsazione è alta, aumento il contributo. E in più invece noi abbiamo fatto la scelta di mettere una SIM interna al motore per varie ragioni. Da una parte siamo riusciti a giustificare, perché bici di questo genere hanno chiaramente l'elemento del furto, è una preoccupazione molto grossa. Mettendo la SIM interna io localizzo la bici, avendo gli accelerometri, se qualcuno anche semplicemente scuote la bici in maniera forte o la sposta, io non solo ricevo un messaggio sull'app di cosa sta succedendo, c'è un'anomalia, mi dice anche dov'è. E chiaramente c'è un GPS sempre attivo. C'è un GPS sempre attivo con una certa cadenza, e quindi questo è un grosso vantaggio in termini di deterrente. Consideriamo anche che tutta la bici è sincronizzata nei vari componenti, batteria, motore e cruscotto, quindi anche lo smartphone. Io faccio il pairing e nel momento in cui mi allontano la bici automaticamente si attiva questo sistema antifurto. Questo cosa ci permette però? Di non dipendere dall'utente per la ricezione dei dati. Cioè, stavamo parlando prima dell'IoT, no? Internet of Things è sicuramente uno di questi oggetti. Cioè, noi i parametri della bici sono in qualche modo avulsi dalla persona che la usa, quindi anche in termini di privacy per un'azienda come Piaggio è molto importante. Io non devo chiedere permesso a Enrico Pagliarini di ricevere i dati, ma è la bici, il codice della bici che manda i dati anonimi. In maniera anonima. In maniera anonima. Quindi voi fate analisi di questi dati. Noi abbiamo messo su, perché non sarà solo la bici ma anche altri veicoli, tutto un sistema di mappatura, perché permette intanto analisi predittiva delle anomalie, ma anche un'ottimizzazione del prodotto a tendere, quindi senza andare a interferire con l'utente stesso, per cui la bici è autonoma nel dire cosa sta succedendo, ovviamente senza una localizzazione, ma appunto in che modo viene usata, su che strada viene usata, eccetera, eccetera, perché questo è un dato che il mondo della bici e i produttori di bici non sanno, non si sa niente di come vengono veramente usate le biciclette. Giusto, questo è molto interessante. L'app che io ho, perché tu ci hai parlato di questo cruscotto, che è una sorta di smartphone che è integrato nella bicicletta, giusto? Proprio c'è un display. Sì, no, io ho entrambe le cose. Però ho anche l'app sullo smartphone. Sì, ho due cose. Ho il cruscotto tradizionale, perché chiaramente i nostri volumi, il nostro target, e un'azienda come la nostra non può dire se non ho lo smartphone non funziona la bici. Deve essere noi abbiamo un target leggermente diverso. E quindi c'è un cruscotto tradizionale che io posso rimuovere e usare soltanto lo smartphone. Lo smartphone è soltanto meglio rispetto al cruscotto tradizionale. Fa molte più cose. Che cosa so io? Cosa posso sapere? Che tipo di parametri? Beh, so allora posso sapere intanto l'ottimizzazione, appunto, tutte queste mappature. Quindi io ho una mappatura da città, per cui il motore, ad esempio, dà più contributi in partenza, perché idealmente in città si fa lo stop and go, dal semaforo io parto. Quindi il motore, invece che usare una forza costante, ti aiuta di più nei primissimi metri e poi cala il contributo. Oppure capisce che è in una zona collinare e cambia la mappatura di nuovo, quindi il modo di erogazione di questa assistenza in maniera diversa. E poi naturalmente ho tutte queste impostazioni che le chiamiamo fitness, perché la bici elettrica non è vero che toglie diciamo lo sforzo o l'attività fisica, per noi anzi è fondamentale. Noi abbiamo fatto sì che la bici elettrica permettesse di avere un esercizio e un'attività fisica più gestita, più controllata, proprio come quando faccio in qualche modo è un attrezzo da palestra che ti porta in ufficio. Quindi su questo display io vedo quanti chilometri ho fatto, come ho vedo anche istantaneamente quanta energia sto mettendo io, quanta sta mettendo il motore con due, è un bel giochino. Volevo concludere con una considerazione sui cambiamenti ai quali stiamo assistendo, che voi state vivendo come aziende. Entrambi mi avete detto che i vostri mercati di riferimento sono il Nord Europa, la Germania, l'Olanda, perché usano la bicicletta più di noi. Però vorrei uno sguardo anche al di là. Tu, Luca, viaggi molto nel mondo, Piaggio è un'azienda internazionale. Cosa sta succedendo nel mondo? È un momento, io anzi sono entrato in Piaggio perché il mondo della mobilità è un mondo che sta cambiando tantissimo in maniera estremamente interessante. E, tanto che anche Piaggio, cioè cosa succederà è molto complesso. Noi guardiamo il nostro, diciamo, spazio europeo spesso, ma poi se uno considera le megacittà India e Indonesia, Vietnam, dove noi esistiamo e il mercato di scooter è molto importante, è lì che si capisce in maniera evidente che la mobilità è ormai un problema sociale significativo e bisogna trovare delle soluzioni. E Piaggio vuole fare, tanto che Piaggio adesso ha recentemente attivato un centro di ricerca a Boston che si chiama Piaggio Fast Forward, che si occupa proprio, un laboratorio che si occupa di analizzare il futuro della mobilità, quindi come cambierà anche rispetto ai giovani che si muovono in maniera molto diversa. E anche insomma il concetto del possesso, ho lavorato anche nel progetto di scooter sharing che abbiamo, proprio perché sono altri fenomeni di nuova mobilità. E quindi mi piace molto come Piaggio sta rispondendo in maniera che già occupa uno spazio privilegiato, perché io trovo l'automobile un po' anacronistica come oggetto. E Piaggio invece è sempre stata nel mondo della mobilità leggera, sia di persone che di cose, e lo stiamo cercando di vedere, stiamo lavorando tanto per capire come sarà e essere, insomma, presenti, e mi sembra che ad oggi stiamo lavorando bene in tal senso. E voi dite che c'è spazio soprattutto per veicoli a due ruote, voi ne avete anche uno a tre, perché l'MP3 sì, è a tre ruote, quello tra l'altro che usate per lo scooter sharing, però c'è spazio per questo mondo, perché è impensabile che nelle grandi città, e non dobbiamo pensare all'Italia che ha di fatto delle piccole città, perché anche le nostre più grandi sono veramente dei mignon a confronto delle città asiatiche o africane, è impensabile che tutti comprino l'automobile. Sì, ma in qualche modo non è strutturalmente possibile, anche quando dicono tutti i cinesi, tutti lì compreranno un'automobile, a scapito di vivere 10 ore al giorno dentro un'automobile. È per quello che anche il discorso dell'autonomia, che magari insomma lo affronteremo un'altra volta, mi lascia... ho sempre alcune perplessità, perché l'autonomia non riduce il numero, le auto autonome non la vedo come un'innovazione del benessere delle persone, la vedo come una sofisticazione in termini di sicurezza, ma poco di più. Per cui c'è ancora tanto a scrivere. Noi, appunto, io sono contento che insomma Piaggio si sta presentando internazionalmente come un'azienda, ci guardano come un'azienda che sta facendo tante cose, è ancora all'inizio, non sappiamo, dobbiamo imparare tutto. Molto bene, io ringrazio Luca Sacchi, che è responsabile dell'innovazione strategica di Piaggio. A presto, buon lavoro. Grazie a voi. E questi erano alcuni trend del mondo della bicicletta. Abbiamo parlato di biciclette a pedalata assistita, quindi con propulsione elettrica, in parte propulsione elettrica. Ma un altro trend è quello della bicicletta che si trasforma anche nella sua versione tradizionale, cioè la bicicletta non elettrica, proprio quella spinta dalla pedalata dell'uomo. Anche in questo caso ci sono alcune startup molto interessanti che stanno inserendo tecnologia nel mondo della bicicletta. Recentemente, e potete riascoltare tutta l'intervista in versione integrale sul nostro sito internet, ho parlato con Marco Salvioli di Volata Cycles, una startup italiana che ha fondato anche una società negli Stati Uniti e comincerà tra circa un anno a vendere una nuova bicicletta piena di sensori e anche di altre tecnologie. Volata è una bici super tecnologica, è una bicicletta che integra una serie di funzioni che non sono mai appartenute alla bici, quindi ha un suo computer integrato che traccia tutte le performance, traccia in GPS i percorsi che vengono fatti, si possono vedere una serie di applicazioni tra cui il meteo, il navigatore satellitare su questo schermo che è integrato nella bici, quindi non va aggiunto alla bici, ha le luci integrate per la sicurezza davanti e dietro, ha un clacson elettronico molto potente che aiuta anche in città per la sicurezza, e poi è un tipo di bicicletta che può anche essere tracciata quando viene parcheggiata, ossia se io parcheggio la bici inserisco il sistema di antifurto della bici. Quando mi allontano, se una persona cerca di rubarla e la muove, quindi nel cercare di rompere il lucchetto, ricevo una notifica sul telefono ovunque mi trovi. Questo è proprio l'Internet of Things della bici, che ha la sua connessione a internet integrata e di conseguenza può inviare la sua posizione al cloud e automaticamente il cloud invia la notifica al telefono della persona. Allora, alcune di queste tecnologie noi le abbiamo già viste in biciclette elettriche. Questa non è una bicicletta elettrica, è una bicicletta tradizionale. Esatto, una bicicletta human powered, direbbero gli americani. Quindi spinta dall'uomo con la classica pedalata. Esatto, ed è una scelta proprio motivata, nel senso che è una bici fatta questa per l'appassionato di sport e gli utility, ossia la persona che vuole utilizzare la bicicletta tutti i giorni per andare a lavoro, per esempio. Questo è un tipo di utente target che abbiamo in mente. Per andare a lavoro, ma è una maniera performante, nel senso che se una persona fa 1 chilometro al giorno per andare in bici, va bene qualunque bicicletta. Se una persona lo vede come un'attività combinata di fitness e anche utility, quindi vado a lavoro ma nel frattempo mi sto anche allenando per il mio giro domenicale, per esempio, o comunque voglio arrivare a lavoro in fretta, mi serve una bici con certe caratteristiche. E che abbiamo fatto un bel lavoro di trovare tutti i componenti che fossero performanti ma allo stesso tempo richiedessero meno sforzo di manutenzione alla persona. E per questo c'è per esempio la cinghia di trasmissione, che è una cinghia molto silenziosa, sostituisce la catena, quindi non serve olio, non arrugginisce, silenziosissima, dura in eterno, non si rompe mai, non può cadere. E questo dite voi, ma dicono gli esperti, è uno dei trend della bicicletta, cioè in futuro vedremo molte meno catene e molte più cinghie che sono di plastica, di gomma plastica. Esatto, e hanno delle fibre di carbonio anche dentro per renderle più robuste. Poi c'è un cambio interno al mozzo, quindi non c'è più il vecchio cambio col vecchio deragliatore che fa cadere la catena, fa rumore, si sporca, salta la catena, ma è tutto completamente interno al mozzo, sigillato, c'è una serie di ingranaggi che fanno cambiare la marcia e quindi non serve, c'è zero bisogno di manutenzione da parte della persona. Senti, torniamo ai sensori. Che tipo di sensori ci sono e a che cosa servono? Allora, quindi quello dell'allarme è un motion detector, è un accelerometro inserito dentro le canne della bici. La bici ha un suo termometro che permette di vedere dove è la temperatura, questo serve per l'applicazione del meteo, per esempio. Ha un sensore di luce, perché le luci sono automatiche, anche qui per ridurre le cose a cui la persona deve pensare, le luci si accendono da sole quando diventa buio. Poi una serie di sensori che servono in realtà a far funzionare cose di back-end della bici, insomma cose interne, vari sensori di temperatura e altre vibrazioni. E poi una serie di attuatori, quindi le luci, il clacson, un suo amplificatore che permette di suonare e far rumore. A questo punto lo facciamo sentire, che così è. Questo era solo un breve accenno all'intervista che trovate sul nostro sito internet www.radio24.it. Marco Salvioli di Volata Cycles. È tutto per questa puntata, versione estiva di 2024 in questo lungo weekend di Ferragosto. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sabato alle 14, domenica alle 13.30. Oppure sul nostro sito internet, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it.